Bisogna sottolineare che si pone il problema che può uccidere il gatto. Si spera che tutti siano onesti. Detto questo, la mia risposta è che non lo so. Succede. Caccia al fotone. Interferenze scientifiche in Creative Commons. A cura di Fabio De Sicò. E benvenuti cari ascoltatori alla puntata numero 191 di Caccia al Fotone, il podcast scientifico che ogni settimana vi intrattiene con amene discussioni su scienza e dintorni. Questa è una puntata speciale dedicata agli avvenimenti odierni, agli avvenimenti di questi giorni. In particolar modo parleremo del terremoto che è avvenuto qualche giorno fa in Giappone e soprattutto cercheremo di concentrare la nostra attenzione sul disastro atomico, lo diciamo subito, che sta avvenendo proprio in queste ore in quell'isola. Ne parleremo con Marco Pagani, autore di Ecoalfabeta, fisico, ma soprattutto membro di ASPO Italia. Buongiorno Marco. Buongiorno. Marco, con te parleremo di questi avvenimenti recenti e quindi la prima domanda, che può essere anche banale ma che in realtà banale non è, è che cosa sta succedendo lì lontano da noi, che forse troppo lontano in realtà non è. Difficile dirlo, noi ho cercato in questi giorni di raccogliere un po' di informazioni, si è visto che lo tsunami, il terremoto ha lesionato seriamente i reattori di due centrali che sono sempre nella stessa zona di 10 km di distanza, note come Fukushima 1 e Fukushima 2, e questo ha creato tutti i problemi che stiamo vedendo adesso. Naturalmente le centrali si sono disattivate, ma il vero problema della tecnologia nucleare è che non si può spegnere la centrale come si può spegnere un motore girando una chiavetta. Si inseriscono le barre di assorbimento dei neutroni, ma l'uranio continua evidentemente a procedere con la fissione, quindi è una fissione che viene fermata assorbendo i neutroni, ma non è mai fermata, perché per fermarsi bisogna disassemblare il combustibile. In questo momento poi naturalmente non è arrivato per i guasti l'acqua di raffreddamento in quantità adeguata, questo ha portato a aumenti di pressione, forse a un possibile meltdown, cioè una fusione parziale di questo uranio che si è surriscaldato, e in ogni caso ieri si è osservata l'esplosione della struttura esterna di contenimento del reattore numero 1 di Fukushima 1 e ci sono problemi analoghi adesso al reattore 3. Marco, qual è la situazione del nucleare in Giappone? Cioè quante centrali nucleari ci sono? La situazione... In Giappone ci siano qualcosa come 55 centrali nucleari che lavorano ormai da anni, alcune sono anche molto vecchie come questa che aveva più di 40 anni e insomma sono state costruite in prossimità delle coste per poter utilizzare l'acqua del mare, questo naturalmente le rende anche più vulnerabili. Senti, il programma nucleare giapponese ha ben 52 centrali nucleari, ma quali sono effettivamente quelle che hanno subito dei danni con questo terremoto e quindi con il successivo tsunami? Beh, in realtà le centrali sono difficile dire, perché poi in realtà ne hanno fermate 11 inizialmente, avendo dovuto quasi dimezzare la produzione di energia elettrica, e sono state fermate quelle che sono state investite dal terremoto, cioè nella zona del nord-est del Giappone, le altre hanno risentito in misura molto minore. Senti, fonti varie di informazioni, sia ufficiali sia non ufficiali, citano il dato che nei pressi della centrale di Fukushima e soprattutto nei pressi del reattore numero 1 sembra che ci siano delle radiazioni superiori alla norma, della radioattività superiore alla norma, e sembra che sia stato rilevato addirittura della fuoriuscita di cesio. Quante sono vere queste informazioni, quanto sono false, fumo negli occhi? Ma insomma, se qualcuno ha rilevato qualcosa hanno detto, hanno parlato di cesio, poi hanno parlato anche di iodio, cioè anche, sul sito proprio ufficiale della TEPCOM, cioè, appunto, hanno scritto che hanno trovato anche iodio, quindi qualcosa è fuoriuscito, in quale quantità è difficile dire, qualcuno dice che non erano quantità allarmanti, ieri si è letto anche su Repubblica che la quantità di il livello di radiazione era tale che la dose che si poteva assorbire in un'ora è quella che normalmente si assorbe in un anno, però sono cose di cui è difficile riuscire a a seguire i dettagli, cioè su questo bisognerà aspettare che purtroppo la situazione faccia un po' si tranquillizzi un attimo, ma poi comunque c'è il problema che il nucleare nasce in questo modo, come dire, un po' segreto, c'è sempre dietro uno stretto controllo sulle informazioni, non si sa mai bene cosa succede e spesso le informazioni vengono come dire, un po' adattate, no? Ecco, perché per cercare di addolcire la situazione. Ieri per esempio la cosa allucinante è che sul sito della TEPCO, dopo che ormai il reattore era esploso, cioè il contenimento era esploso e c'erano video online in tutto il mondo, loro hanno detto che c'è stato un botto e fumo bianco, no? Quindi voglio dire, è chiaro che se il livello di comunicazione è questo, è difficile a volte sapere cosa succede, perché purtroppo in fondo noi non vediamo le radiazioni, dobbiamo fidarci di misure che vengono poi fatte sempre da tecnici, cioè ci vorrebbero delle valutazioni indipendenti che però evidentemente in questo momento non sono possibili. Senti, pensi che veramente il rischio meltdown sia scongiurabile, oppure pensi in tutta sincerità che stiamo andando in quella direzione e non possiamo tornare indietro? Beh, insomma, l'impressione che mi dico, pur sempre essendo molto abbottonati su questo, che delle cose che dicono sembra che la situazione gli stia un po' sfuggendo al controllo da come raccontano le cose, ecco. Voglio dire, adesso al di là dei dettagli più o meno tecnici, ma questa è l'impressione. Poi ancora ieri dicevano che noi stiamo operando come se un meltdown fosse in atto. Poi oggi ha detto il portavoce del governo che il meltdown è altamente probabile, quindi sembrerebbe che non si riesce più poi a un certo punto a tornare indietro, perché lì non è che si possa accedere facilmente a una struttura surriscaldata, si opera dall'esterno intervenendo e cercando di alleviare la pressione all'interno, cercando di far entrare il liquido di raffreddamento, cioè ci sono tante cose, ma sembra che la situazione gli stia sfuggendo di mano e che oltre un certo punto è difficile tornare indietro, deve essere stato lo stesso effetto di panico che hanno provato poi a Chernobyl probabilmente, ecco. Marco, tu su Ecoalfabeta ti sei occupato anche del fatto che in realtà sulla comunicazione sta passando il problema e il rischio di una sola centrale. In realtà le centrali coinvolte all'interno del rischio nucleare, tra virgolette, sono più di una. Beh, certo, nel senso che adesso sono state colpite queste due, più c'è stato un incendio anche a Onagawa, e quindi queste che quindi là sono tre, mi sembra, Onagawa. Invece a Fukushima 1 sono 6 e a Fukushima 2 sono 4, quindi di queste di 10 in questa zona, quelle che hanno un po' di problemi sono 6, 2 gravi, gli altri 4 al momento sembrano più sotto controllo. Le altre, quelle che non hanno problemi, tranne una che è stata fermata in maniera di sicurezza, le altre 3 erano ferme per normale o non so normale, erano già ferme in precedenza. Quindi in ogni caso, anche se dovessero risolversi questa cosa senza vittime, senza danni, senza contagi, cosa che è difficile poi valutare, soprattutto per quanto riguarda la contaminazione radioattiva, che quando è di bassa intensità, in ogni caso il colpo energetico per il Giappone sarà comunque enorme. Già nel 2003 avevano perso 100 terawattora per effetti dei terremoti, nel 2007 un po' di meno, ma perché hanno dovuto chiudere molto centrali, qua non so quante ne dovranno chiudere, no? Rischieranno di ridurre di tanto la produzione, quindi questo diventa una situazione che il Giappone, che è già colpito dal terremoto, deve oltretutto, no, fare i conti col fatto che, grazie al fatto che hanno fatto questa scelta poco oculata di investire sul nucleare, adesso devono spendere non solo energie per rimediare la situazione, ma poi si troveranno con meno energia dopo per ricostruire. Marco, abbiamo citato più volte nella trasmissione il termine meltdown, forse è il caso di fermarci per un attimo e spiegare esattamente che cos'è e quando avviene. Certo, senza entrare in dettagli tecnici, ma il problema appunto è che il design della centrale è il design che viene fondamentalmente dalla fissione nucleare usata nelle armi nucleari, perché comunque è da lì che è nato, no, in fondo questo design, non è mai stato cambiato. Allora viene messa insieme una massa critica di combustibile arricchito al 3-5% di uranio fissile, no, 235, questa massa critica, se fosse lasciata a se stessa, darebbe luogo a una catena nucleare che porterebbe naturalmente di per sé una piccola esplosione, quindi se non incontrollata questo reattore sarebbe instabile, no? Quindi bisogna controllarlo, questo è un unicum, no, se vogliamo, nelle fonti energetiche. L'unico modo per spegnerlo è disassemblarlo, questo è il punto chiave da capire, che spesso viene un po' trascurato. Per controllarlo, perché è un effetto cosiddetto reazione catena o un effetto valanga? Perché ogni nucleo disintegrato, cioè scisso in altri due nuclei più piccoli, poi in media produce tre neutroni che vanno a colpire altri nuclei provocando la loro scissione, quindi con un effetto esponenziale, e questa cosa crescerebbe moltissimo. Allora bisogna controllare i neutroni in modo che non siano troppi, quindi con queste barre di cadmio che hanno un'elevata sezione di assorbimento assorbono i neutroni in eccesso, però non bisogna assorbirne troppi, se no la reazione non si autosostenta più, a quel punto si ferma da sola. Quindi è una situazione strana, ecco, è una situazione delicata di continuo controllo, ecco, non si può lasciare un secondo a se stessa, no? Evidentemente la reazione nucleare. Non solo, però in ogni caso quando si ferma, se anche la reazione proprio di fissione massiccia, si continua a generare calore all'interno del reattore per effetto comunque di tutte le reazioni nucleari che avvengono anche quando non sono a un andamento esponenziale, e quindi questo calore generato può, se non si riesce a raffreddare abbastanza facilmente, portare a tutto l'insieme al punto di fusione dell'uranio, che è sopra i 1000 gradi, e quindi poi questa massa di metallo fuso cola dappertutto e finisce, può finire anche nelle fondamenta degli edifici e così via, quindi inquinare volendo anche il terreno che sta sotto la centrale. Ecco, questi sono un po' gli scenari che vengono a volte dipinti. Questo è quello che è successo a Chernobyl, quello che è successo in parte a Three Mile Island, è quello che forse potrebbe accadere, forse per quello che ne sappiamo, insomma, è già accaduto in Giappone. Senti, di recente, proprio ieri, sono andato sul sito della World Nuclear Association e lì si descrive molto dettagliatamente che questo qui era un reattore di seconda generazione, quindi la sicurezza nei reattori di seconda generazione è molto più bassa rispetto ai reattori di terza. Ecco, cosa sarebbe cambiato se lo stesso incidente fosse avvenuto in un reattore, meglio ancora in una centrale nucleare con un reattore di terza generazione? Vabbè, questa misura era una centrale molto vecchia, perché era del 1970, e ho appena letto un dispaccio della Reuters che dice che in realtà doveva già andare in pensione a febbraio dopo i 40 anni di servizio, diciamo, no? Anche loro hanno la pensione di anzianità dopo 40 anni di servizio, no? Le centrali nucleari, sarebbe stata la scelta più oculata. Se l'avessero mandata in pensione come era previsto dai progetti originali, questa sarebbe stata già spenta, probabilmente il combustibile disattivato, e comunque non avremmo avuto il problema di un arresto di emergenza dovuto al terremoto, e quindi questo sicuramente è stato un problema. La lobby nucleare va spinto per avere un prolungamento di 10 anni, e questi sono anche gli effetti di questa reazione sconsiderata. Dunque, adesso io non ho tutti i dettagli, ma questi sono reattori vecchi, reattori di terza generazione, cioè intendiamo quelli come quelli che EPR, che sono in costruzione in Finlandia, usano un ciclo che riesce a produrre più energia, no, per unità di combustibile, ma sono un po' in realtà potenzialmente più rischiose, nel senso che questo tipo di, ovviamente riuscendo a produrre più energia, il prezzo che si paga è di avere comunque una quantità, diciamo, di radioattività più elevata, adesso per dirlo insomma così in maniera un po' semplificata, per cui in caso di incidente evidentemente i rischi sarebbero maggiori, quindi lì devono per prevenire questi incidenti spendere molto e molto di più, quindi questo vuol dire portare i costi a dei livelli astronomici, come sta avvenendo in Finlandia, no? Dove poi in realtà i costi sono più che raddoppiati, così come i tempi di lavorazione. Chiaro che il prezzo si paga in qualche modo, cioè per essere più sicura vuol dire lavorarci molto di più, no? E spendere anche molto di più. Mi permetto poi di aggiungere qualcosa a quello che hai appena detto tu. È notizia di qualche anno fa, cioè abbiamo fatto anche un fotone su questo argomento, della richiesta da parte dell'agenzia nucleare finlandese, dell'agenzia nucleare francese, di maggiori livelli di sicurezza proprio per le centrali di terza generazione, proprio per le centrali EPR, che peraltro dovranno essere messe qui in Italia. E allora, sui livelli di radiazione volevo parlare chiedendoti anche qualcosa. Oggi noi sappiamo i livelli di radiazione che stanno fuoriuscendo dal reattore numero 1 o nelle vicinanze del reattore numero 1 nella centrale di Fukushima. Quanto tempo dovremo aspettare secondo te per avere delle misure indipendenti su questi dati? Beh, questo è difficile dirlo, anche perché non so a che livello sarà possibile poi fisicamente avvicinarsi a un territorio militarizzato ormai da decine di migliaia di soldati, per cui ormai tutto sembra più nelle mani appunto dell'esercito, per cui non so se sarà mai possibile poi fare delle misure indipendenti, ecco, quantomeno le misure potranno essere le rilevazioni, ahimè, no, successive di eventuali malattie, malformazioni, nascite, no? Però già oggi, anche adesso, queste informazioni circolano poco rispetto a Chernobyl, no? Ci sono, ma non sono parte di, come dire, una consapevolezza globale. Ci sono alcuni esperti che girano l'Italia e l'Europa per mettere in guardia da questi rischi, malattie, eccetera, però anche lì, voglio dire, non si sa ancora tutto, secondo me, quindi sarà ben difficile, ecco, secondo me. Tu più volte, sia su Ecoalfabeta sia in questa intervista, hai paragonato questo disastro nucleare al disastro di Chernobyl. Quanto siamo vicini a quel disastro lì? Beh, chiaro che le due cose sono diverse, per il fatto che a Chernobyl stavano facendo alcune prove, no, sul reattore, quindi è stato un errore umano di partenza. Qui non c'è stato un errore umano di partenza, nel senso che poi le cose sono andate in parte come dovevano. Evidentemente si sottovaluta comunque quello che può succedere in un sistema complesso. In un sistema complesso i problemi potrebbero essere decine, decine, decine che possono intervenire, e quindi non sempre si considera il possibile scenario, il peggiore scenario possibile, no, in questa situazione. E mi sembra di capire che anche in Giappone non l'hanno considerato, perché comunque si è interrotta la linea esterna di alimentazione delle pompe, si sono rotti i diesel, avevano delle batterie che però evidentemente non erano sufficienti a fare il lavoro che devono fare, quindi sicuramente non hanno considerato, cioè sono stati troppo confidenti nella possibilità di rispondere a una situazione di crisi. Senti, siamo in conclusione di trasmissione, quindi anche se non è una trasmissione classica con una classica intervista su un paper, ti faccio la domanda zainetto, la classica domanda zainetto: che cosa hai imparato da questa vicenda? Da questa vicenda ho imparato ancora di più il fatto che è importante che ci sia una, quella che potremmo chiamare una sovranità energetica, come si, nello stesso significato con cui si fa strada la parola sovranità alimentare, cioè che ogni territorio dovrebbe potere, almeno per i bisogni primari, intendiamoci, non per tutto, produrre l'energia di cui ha bisogno, quindi per le esigenze domestiche, per il cibo, per riscaldarsi, per poter fare una vita secondo i bisogni primari. In questo modo non ci sarebbe bisogno di avere enormi impianti che producono in quantità. Questo è altrove controllati da altri, su cui non si hanno poche conoscenze e così via. Questo è un aspetto e soprattutto di fonte rinnovabile. Volevo aggiungere infine questo aspetto, cui sono andato ancora a riconsiderare: se consideriamo la storia degli ultimi 40 anni, l'energia nucleare ha contribuito alla produzione energetica globale dell'umanità, quindi non solo elettrica, tutta l'energia di tutte le fonti, soltanto per circa l'1,8%, no? Sulla produzione cumulativa. Quindi è una quantità tutto sommato come dire, irrisoria, che se fosse venuta a mancare non ce ne saremmo nemmeno accorti sulla media planetaria, e io credo che quindi su una quantità così irrisoria non valga la pena correre questi rischi, dover continuare a contaminare l'ambiente per estrarre l'uranio dalle miniere a cielo aperto, per tenerci da parte tonnellate di uranio impoverito, per avere queste scorie di cui in realtà nessuno sa bene cosa fare, per avere questi siti che resteranno ancora almeno per un secolo, i siti nucleari, a fronte appunto, come dico, di un vantaggio modestissimo per i cittadini. Cioè forse sarebbe ora che i cittadini facciano sentire di più la loro voce e dire no, a noi vogliamo che si valutino complessivamente i benefici e i rischi per tutti e non soltanto per alcuni. Marco, grazie per la pazienza con cui hai risposto alle nostre domande, una puntata del tutto speciale che non potevamo non fare, ed è per questo che Caccia Fotone si è occupato di questo argomento proprio nel momento adatto, purtroppo, per occuparsene. A questo punto l'appuntamento è per tutti voi alla consueta puntata di sabato, e l'augurio e il classico di buona scienza a tutti. Marco, grazie davvero. Grazie anche a voi, ciao.